L'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Cappellucci. Da Lucia Cappellucci, buongiorno e benvenuti all'Eco del Silenzio. Passiamo subito alla prima notizia. Da www.eilmensile.it, Argentina. Approvato alla Camera il disegno di legge che inserirebbe il femminicidio nel codice penale, del 19 aprile 2012. Con 203 voti a favore, nessun contrario e un'astensione, è stato approvato ieri dalla Camera dei Deputati argentina un disegno di legge che inserisce il femminicidio nel codice penale. Il progetto è il risultato dell'unificazione di 13 iniziative separate su questo tema. Il disegno di legge, approvato, andrebbe a modificare le sezioni 1 e 4 dell'articolo 80 del codice penale e stabilisce come fattore aggravante il legame sentimentale tra l'assassino e la vittima. Sarà da definire il periodo di reclusione o l'ergastolo per coloro che uccidono un ascendente, discendente, coniuge o persona con la quale egli sostiene, ha mantenuto o ha provato senza successo ad iniziare una relazione. Sarà possibile specificare anche come fattore aggravante che definisce il femminicidio l'omicidio di una persona di sesso femminile quando l'atto è perpetrato da un uomo con la violenza di genere e l'applicazione della massima pena quando l'omicidio è stato effettuato anche come mezzo per infliggere sofferenza ad una persona che abbia mantenuto o stia mantenendo un rapporto. Il presidente della Commissione sul diritto penale, Oscar Albrieu, ha detto che il crimine non è nuovo come una forma estrema di violenza contro le donne. Il deputato del governo ha spiegato che il concetto di femminicidio è una questione pubblica da risolvere da parte dello Stato perché si radica in cause sociali, culturali ed economiche. Nel corso del 2011, secondo l'Osservatorio sugli omicidi di genere in Argentina, ci sono stati 282 omicidi di donne, anche se al momento non ci sono statistiche ufficiali nazionali su questo tema. E passiamo ora dall'Argentina all'Italia, dove il numero di femminicidi, cioè omicidi di donne, la maggior parte dei casi da parte di un convivente o del partner attuale o precedente, è in continuo aumento. Da Lipperatura di Loredana Lipperini, Vanessa, di Loredana Lipperini, del 27 aprile 2012. Vanessa aveva 20 anni come mia figlia, aveva un ragazzo come mia figlia, ha litigato col suo ragazzo come tutte le ventenni del mondo. Vanessa è stata strangolata e il suo corpo è stato gettato da un cavalcavia. Vanessa è a pagina 25. Un trafiletto in basso a sinistra, accanto ai necrologi. Vanessa è il numero 54 per quanto riguarda le donne uccise dall'inizio del 2012. E sempre da Lipperatura, un appello di cui vi leggerò il comunicato stampa, a cui ho in prima persona aderito. Mai più complici. Del 27 aprile 2012. Comunicato stampa. 54. L'Italia rincorre primati. Sono 54 dall'inizio di questo 2012 le donne morte per mano di un uomo. L'ultima vittima si chiama Vanessa, 20 anni, siciliana. Strangolata e ritrovata sotto il ponte di una strada statale. I nomi, l'età, le ci cambiano. Le storie invece si ripetono. Sono gli uomini più vicini alle donne a ucciderle. Le notizie li segnalano come omicidi passionali, storie di raptus, amori sbagliati, gelosia. La cronaca li riduce a trafiletti marginali e il linguaggio le uccide due volte, cancellando con le parole la responsabilità. È ora invece di dire basta e chiamare le cose con il loro nome, di registrare, riconoscere e misurarsi con l'orrore di bambine, ragazze, donne uccise nell'indifferenza. Queste violenze sono crimini, omicidi, anzi, femminicidi. È il tempo che i media cambino il segno dei racconti e restituiscano tutti interi i volti, le parole, le storie di queste donne e soprattutto la responsabilità di chi le uccide perché è incapace di accettare la loro libertà. E ancora una volta, come abbiamo già fatto un anno fa, il 13 febbraio, chiediamo agli uomini di camminare e mobilitarsi con noi, per cercare insieme forme e parole nuove, capaci di porre fine a questo orrore. Le ragazze sulla rete scrivono: con il sorriso di Vanessa viene meno un pezzo d'Italia. un paese che consente la morte delle donne è un paese che si allontana dall'Europa e dalla civiltà. Vogliamo che l'Italia si distinga per come sceglie di combattere la violenza contro le donne e non per l'inerzia con la quale, tacendo, sceglie di assecondarla. Comitato Promotore Nazionale Se Non Ora Quando, Loredana Lipperini, Lorella Zanardo, Il Corpo delle Donne. L'eco del silenzio. Silenzio. Ed ora due notizie da www.vita.it. Diritti. Le aggressioni senza fissa dimora si impennano del 20%, del 27 aprile 2012. La Onlus Avvocati di Strada presenta il rapporto 2011. L'Associazione Avvocato di Strada presenterà domani il suo rapporto 2011 all'interno del convegno I diritti al tempo della crisi. L'associazione che nel 2011 ha aperto 3 nuove sedi a Piacenza, Vicenza e Salerno è oggi presente in 26 città italiane, dove presta assistenza legale gratuita ai senza fissa dimora. Il presente rapporto, scrive Antonio Mumolo, il presidente, nella prefazione, rappresenta il nostro piccolo contributo alla costruzione di una società più giusta, in cui tutte le persone sono davvero uguali davanti alla legge e tutti i diritti sono ugualmente tutelati. Le pratiche aperte nel corso del 2011 sono 2.360, il 6,7% in più rispetto al 2010. Gli extracomunitari si confermano i primi utenti del servizio, con un 59% del totale delle pratiche, ma il 2011 ha visto un netto aumento delle domande di assistenza da parte di donne sole o con figli minori, arrivate al 33% del totale. Nell'ultimo anno sono aumentate del 20% le persone che hanno avuto bisogno di tutela legale in quanto aggrediti, minacciati e derubati perché dormivano in strada. Altre 33 persone nel 2011 si sono rivolte ad avvocati di strada perché sono state multate per aver chiesto l'elemosina o per aver mangiato e dormito per strada. Subito dopo l'assistenza legale per i permessi di soggiorno, 396 pratiche, la maggior parte delle pratiche, 351, riguarda le domande di asilo politico e protezione sussidiaria. Così tante pratiche sono indicative dello stato di abbandono in cui versano le persone che arrivano in Italia, in fuga da paesi in guerra, scrivono nel report gli avvocati. Ed ora quella che potremmo definire una buona notizia, perché una volta tanto che l'Italia si distingue per qualcosa di meritevole, credo sia giusto riportarlo. Sempre da www.vita.it, ambiente. Italia leader nella raccolta di lubrificanti usati, del 27 aprile 2012. Nel 2011 ne sono state recuperate 189.266 tonnellate. È quanto emerso dall'Assemblea del Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, che ha approvato all'unanimità il bilancio d'esercizio 2011. Con oltre 189.266 tonnellate di oli lubrificanti usati, con valori superiori al 95% del potenziale raccoglibile, il COU ha conseguito nel 2011 un notevole risultato di raccolta, nonostante l'immissione al consumo sia tornata a percorrere un trend negativo con 431.000 tonnellate consuntivate. Risultati soddisfacenti anche dal punto di vista della qualità, che attiene al prodotto rigenerabile, oltre 168.000 tonnellate, che ha segnato un lieve incremento rispetto al 2010. Questo risultato ha permesso di produrre 105.900 tonnellate di oli base rigenerati, che coprono il 25% del fabbisogno italiano complessivo, a conferma della leadership europea del nostro paese in questo settore. Ancora una volta, l'impegno e la coesione di tutti gli attori che compongono il sistema consorzio ci hanno permesso di traguardare risultati importanti in un anno, che può essere annoverato come uno tra i più complessi, ha commentato il presidente Paolo Tomasi. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.vita.it. Agricoltura, il biologico non potrà sfamare il mondo, del 27 aprile 2012. Lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Nature. A sfamare il mondo non sarà solo l'agricoltura biologica. A confermare questo dato di fatto, che non può essere smentito da chi ha un approccio intellettualmente onesto al problema, è uno studio pubblicato dalla rivista Nature e quindi suffragato dal consenso della più autorevole platea scientifica del pianeta. Lo studio, condotto dai ricercatori dell'Università McGill e dall'Università del Minnesota, afferma che i raccolti provenienti da agricoltura biologica sono in genere inferiori a quelli provenienti da agricoltura convenzionale, e questo è particolarmente vero per i cereali, alla base della dieta umana. La ricerca, che rappresenta una completa analisi della letteratura scientifica sul rendimento della coltivazione biologica rispetto a quella convenzionale, mira a far luce sul dibattito, spesso surriscaldato, che vede da una parte i contrari dell'agricoltura convenzionale, accusata di essere una grande minaccia ambientale che mina la biodiversità, prosciuga le risorse d'acqua e aumenta il rilascio di gas a effetto serra. Dall'altra, i detrattori del biologico, giudicato inadeguato a soddisfare le reali necessità di cibo, che vorrebbero addirittura aumentate se questo tipo di coltivazioni, che richiede una superficie molto maggiore, venisse incrementato. Vero è, sostengono gli scienziati, che non esiste una formula che vada bene per tutto, conciliando da una parte le esigenze di tutela dell'ambiente e dall'altra la cronica mancanza di cibo di gran parte dell'umanità. Come sempre, la risposta va cercata in soluzioni di compromesso, che vedano impegnate tutte le tecniche disponibili, dando vita a sistemi ibridi che consentano di produrre più cibo a prezzi accessibili, garantendo il sostentamento per gli agricoltori e di ridurre i costi ambientali. Nel complesso, la resa dell'agricoltura biologica è del 25% inferiore rispetto a quella convenzionale. La differenza varia ampiamente tra i tipi di colture e specie. I rendimenti di legume e piante perenni, come la soia e la frutta, per esempio, sono molto più vicini a quelli delle colture convenzionali. Il nostro studio, afferma Verena Suffert, responsabile del team di ricerca, indica che i sistemi biologici potrebbero richiedere apporti di azoto superiori per ottenere alti rendimenti e quindi potrebbero fare un uso limitato di fertilizzanti chimici, invece di basarsi solo su letame. Allo stesso tempo, continua, l'agricoltura convenzionale potrebbe imparare dal successo dei sistemi organici a fare uso di tecniche proprie dell'agricoltura biologica. Forse la gente sta facendo la domanda sbagliata, ha affermato Nautin Ramankutti, coautore della ricerca. Invece di chiedere se il cibo è biologico, forse dovremmo chiederci se è coltivato in modo sostenibile. Ed ora una piccola parentesi, un momento Wikipedia potremmo chiamarlo. Dato che mi è capitato il 25 aprile di salire sull'autobus e ascoltare alcuni ragazzi che parlavano di come fossero estremamente contenti di non essere a scuola, ma che allo stesso tempo affermavano di non avere idea del perché non ci fossero, apriamo una piccola parentesi sul 25 aprile e una sul 1 maggio, visto che sarà la prossima festa. Quindi da Wikipedia italiano, 25 aprile. L'anniversario della Liberazione d'Italia, anche chiamato Festa della Liberazione, Anniversario della Resistenza o semplicemente 25 aprile, viene festeggiato in Italia il 25 aprile di ogni anno e rappresenta un giorno fondamentale per la storia d'Italia, la fine dell'occupazione nazifascista avvenuta il 25 aprile 1945 al termine della Seconda Guerra Mondiale. Convenzionalmente fu scelta questa data perché il 25 aprile 1945 fu il giorno della liberazione di Milano e Torino. Entro il 1 maggio, poi, tutta l'Italia settentrionale fu liberata: Bologna il 21 aprile, Genova il 26 aprile, Venezia il 28 aprile. La liberazione mette così fine a 20 anni di dittatura fascista e a 5 di guerra. Simbolicamente rappresenta l'inizio di un percorso storico che porterà al referendum del 2 giugno 1946 per la scelta fra monarchia e repubblica, quindi alla nascita della Repubblica Italiana fino alla stesura definitiva della Costituzione. Il 25 aprile fu istituito come festa nazionale il 22 aprile del 1946. Per quanto riguarda invece il 1 maggio, che spero al pari del 25 aprile tutti conoscano, in questo caso non solo per il concerto di Piazza San Giovanni a Roma, sempre da Wikipedia vi leggo la breve didascalia. La festa del lavoratore. La festa del lavoro o festa dei lavoratori è una festività mondiale celebrata il 1 maggio di ogni anno, che intende ricordare l'impegno del movimento sindacale e traguardi raggiunti in campo economico e sociale dai lavoratori. La festa del lavoro è riconosciuta in molte nazioni del mondo, ma non in tutte. In Italia fu istituita nel 1891, soppressa nel 1925 e reistituita nel 1945. Nello specifico, il 1 maggio venne introdotto come festeggiamento per una battaglia ben precisa. Con questo, infatti, si intendono ricordare le battaglie operaie volte alla conquista di un diritto ben preciso, l'orario di lavoro quotidiano fissato in 8 ore.